Io non lo so quanto male ci faremo se restiamo come siamo. Una lacrima divisa in due mi sta spezzando cuore. E solo tu lo puoi salvare. Quanto male si prova a non potersi incontrare. Questo tempo che scorre più lento nei giorni miei fa male, sai, se non ci sarai. Non lo so se la voce dei miei sogni sarà triste nei risvegli. Un ricordo che risveglia me potrà spezzarmi il cuore. E non avrò più parole per parlare d'amore. Questa lacrima che scende forte sul viso tu fa capire, ti voglio bene ancora.